Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia della poetessa Marta Gazzola. Fogli estivi di destini erranti. Scorre la vita tra le mie dita, sembra che sfugga. Scivola la sabbia sotto il mare ogni volta che l'onda la viene a trovare. Mangiare una pesca, raccogliere conchiglie per farne collane, lasciare le impronte, andare. Dove sono le mie figlie? Devono ancora arrivare. Ogni diritto è riservato all'autore.